Dal 24 al 26 maggio torna la terza edizione del Festival Olé Oltre Editoria. Noi siamo al telefono con Gianluca per presentare questa nuova edizione. Ciao Gianluca. Ciao Alessandro. Allora, appunto, terzo anno di questo festival di produzioni indipendenti sostanzialmente. Sì, è il terzo anno di Olé, terzo anno del 2024. Quest'anno il titolo di Olé sarà Rebus, parliamo di autoproduzioni, di grafica, di testi, di microeditoria e mantenendo il clima degli altri due anni passati. La presenza di XM24 ha sempre contraddistinto appunto il vostro festival, ora è nuovamente diciamo sotto attacco anche con le dichiarazioni recenti dell'amministrazione comunale, quindi assume ancora più senso la vostra presenza lì. Ma ovviamente noi continuiamo a fare il discorso che facciamo da anni dentro XM24, cioè portiamo avanti uno dei linguaggi espressivi dello spazio. E assolutamente ora più che mai uno spazio di incontro accoglie realtà come Olé, realtà che accolgono altre individualità che vogliono esprimersi, che vogliono dire la loro. E quindi torniamo appunto in Bolognina, nello spazio, a parlarne. Sul vostro sito, che ricordo anche agli ascoltatori, xmole.noblogs.org, c'è già un programma che prevede tantissime cose diverse, da presentazioni di libri, ma anche laboratori, performance, mostre. Guidaci un po' attraverso il programma. Allora, quest'anno, innanzitutto avremo, come tutti gli anni, presentazioni, laboratori e mostre attive tutti e tre giorni. Per cominciare, il venerdì abbiamo la presentazione del nuovo libro di Wolf Bukowski, edito da Allegre nel 2019. Poi avremo come ospiti SMK, che presenterà il nuovo teaser di The Milky Way, il loro ultimo prodotto, tra l'altro ci farà la cena, mentre il sabato sarà ancora più lungo, iniziando circa dalle 15, dove avremo diverse presentazioni, dall'editoria al fumetto, e cito il Re di Bangkok, edito da Ad Editore, per finire con una tavola rotonda tra i festival indipendenti. Abbiamo come tutti gli anni diversi festival nazionali e internazionali presenti ad Olé. Ci sarà dal CRAC di Roma, all'AFA di Milano, fino a Tenderete di Valencia e Tropical Dreams di Mallorca. Quindi faremo un incontro tra di noi, mentre la domenica si inizierà dall'ora di pranzo, quindi vi aspettiamo appunto da circa mezzogiorno. Avremo diverse presentazioni che vanno da xenofemminismo, pelle queer e maschere straight, fino a presentazioni di fumetti più leggere come Materia di genere ed effetti collaterali. La novità di quest'anno sono le performance che abbiamo visto nell'ottica di creare un po' più un ambiente audiovisivo all'interno del festival. Abbiamo pensato appunto, essendo il tema di quest'anno Rebus, qualcosa che diciamo colleghi ciò che è il testo a quello che è la grafica, inventando nuovi linguaggi, inventando nuovi modi di interpretazione e di interpretare la realtà. Le performance tenevamo ad averle e abbiamo con piacere quella di Paola Padiewaj, Radio Donna, Back from the Stake, Against Fascist Attack, molto interessante, la domenica alle 19, e invece Ctoniofonie di Nicola Amato, un artista locale che lavora tra l'incisione e il noise. Cito velocemente anche le mostre saranno anche loro molto molto varie. Ci sarà da Notix Ilofage, un'artista parigina che lavora con l'incisione, Flora Mark, e Volkettina Lady di Gianna Maini, che sarà più sulla fotografia, e Daphnet Song di un'altra artista fotografa, quindi anche qui la fotografia che è rientrata nel festival quest'anno. Poi per tutto il resto vi invito a venire nei tre giorni. Torno un attimo su una performance che hai citato, che è Back from the Stake, perché racconta di una storia che riguarda la radio, tra l'altro, quindi ovviamente ha colpito la mia attenzione, un episodio avvenuto nel 1979 a Radio Città Futura, con un assalto neofascista appunto durante una trasmissione di donne. Esatto, sarà una... ecco, guarda, Paola giustamente non la chiama performance, quindi già mi scuso con lei, ma intervento sonoro. Lei farà una specie di reading accompagnato da musica drone, accompagnato da due altri musicisti, e coglierà proprio quello che hai citato, appunto questo attacco all'interno di qualcosa, di un'esperienza molto emotiva, che racconterà attraverso diverse espressioni e diverse emozioni quello che è stato questo attacco a Radio Città Futura appunto nel 79. Una cosa che non abbiamo detto ma che vale la pena di dire è che Olé, a differenza magari di altri festival, abbiamo visto da poco anche il Salone del Libro, come dire, non ha uno spazio prettamente commerciale, cioè non chiedete soldi a chi viene ad esporre i propri lavori, le proprie opere. No, assolutamente, mai l'abbiamo chiesto, ma hai citato anche tutto quello che è stato il dibattito sul Salone del Libro di Torino. Siamo assolutamente in linea con quella che è la nostra, quelli che sono i nostri valori sin dall'inizio. Cioè, noi non chiediamo, non c'è uno scambio di mercato tra noi e gli espositori, noi facciamo semplicemente, creiamo un luogo, uno spazio all'interno del quale chi vuole può venire a partecipare, a condividere quello che fa o quello che pensa sul suo banco. Detto questo, il Salone del Libro di Torino ovviamente ha portato alla luce quella che è la logica del mercato, che magari è dietro alcuni festival o alcuni eventi nel quale ci sono dei pagamenti prima di quelli che sono i contatti tra persone o interpersonali. Olé non lo è mai stato e Olé infatti è contro ogni tipo di fascismo e di verticalismo sotto questo punto di vista. Speriamo che sotto ogni sua forma possa riconfermare anche quest'anno, anzi sappiamo che riconfermerà anche quest'anno questo pensiero. E allora io ricordo l'appuntamento il 24, 25 e 26 maggio a XM24, il Festival Olé oltre editoria, e ricordo ancora l'indirizzo insomma del sito xmole.noblogs.org, appunto per scoprire il programma, poi ci sono anche, c'è anche la pagina Facebook. Grazie mille Gianluca. Alessandro, se posso, approfitto per lanciare anche direttamente il 29 giugno, che sarà una giornata nella quale XM scenderà in strada e ricorderà e festeggerà con il resto della popolazione diversi valori e diverse battaglie che sta portando avanti. Certo, hai fatto bene a ricordare anche questo appuntamento, certo. Grazie mille. Grazie a te. Alla prossima. Ciao, buona giornata. Ciao.